Oggi è una giornata in cui guardo con grande dispiacere il fatto che nessuno si sia accorto che è il giorno della dissolutezza. Che lei settantenne e il suo fidanzato ottantottenne abbiano programmato una serata di dissolutezza, e la dissolutezza programmata ha un sapore infinitamente superiore rispetto a quella improvvisata. Programmata vuol dire che lei sa, ha la sua valigetta degli accessori dietro, lui avrà la sua farmacia dietro, ognuno sarà pronto, ognuno avrà pronto. E 118 di fuori, no, naturalmente. Beh, certo, quello sì. Tenete, se niente, ecco, il telefono tenetelo sempre a portata di mano. Però posso dire una cosa, sarebbe un bel trapassare, diciamo la verità, varrebbe la pena. Certo, Se fantastico. uno potesse È un sceglierlo, po' non. terrificante per chi, è un po' terrificante Per chi per gli altri, rimane, però che deve però occuparsi dello smaltimento dei rifiuti, però esatto. consideri che ha fatto un gesto di estrema benevolenza nei confronti di un essere umano e vorrei che tutti potessero pensare qualcosa del genere nei confronti delle nostre povere ossa.